Nerdcast, puntata 1-5. Eccoci di nuovo qua, cari ascoltatori nerd, io sono Garriden, questa puntata la conduco io, il nostro Murtag, che era il nostro vecchio conduttore, è ancora qui con noi. Ci sei, sono Murtag? Morto. Sì, sono morto perché sono vecchio, quindi sono morto. Il nostro vecchio allora, tante novità in questa puntata, partiamo con i contatti perché abbiamo poco tempo. Io sono Dario, anche detto Garriden, mi trovate su devilsir92 su Twitter. C'è Francesco, anche detto Murtag, Puppet Forria su Twitter. Non ci provate, in realtà lui non c'è mai. Non c'è, infatti è quasi inesistente quel contatto. Ecco, è un maledetto. E poi c'è Luca, also known as Rampage. Il suo contatto è Wish Freedom su Twitter. E infine Alessandro, also known as Malloman. E il suo Twitter è ugualmente Malloman. In breve, qualche novità sul podcast, in particolare trovate le novità sul nostro portale, è nerdpodcast.blogspot.com. Potete adesso scaricare le nostre puntate tramite Mirror. Sono scomparse le due rubriche Onigiri e il vecchio Pegbiter dal podcast principale, quindi non le sentirete oggi, e sono rinate insieme ad altre rubriche in un feed a parte, che, di cui parleremo meglio dopo. Insomma, tratteremo in seguito quali sono le nuove rubriche e ve le spiegheranno i conduttori stessi. Quindi non mi resta che dirvi che il feed completo, quello lì dove avrete le rubriche e il podcast, è sulla sinistra appena entrate nel nostro blog. Se non vi piacciono le nostre rubriche e volete sentire solo il podcast, basta andare nella pagina podcast e avrete un'iscrizione, per così dire, podcast only. Basta con le premesse, ci lanciamo. Via con le Nerd News, sigla. News. Molto bene, Nerd News. Allora, parte Rampage che ci parla del lato oscuro di questi giochi indie. Vai Rampage. Sì, allora, quella che vi porto non è esattamente una Nerd News, se così vogliamo definirla, ma è il pensiero, diciamo, di un... che viene espresso in un articolo di Parliamo di Videogiochi.it, in cui si parla un po' dei lati... più dei contro che dei pro di tutto quel filone di indie gaming che più volte abbiamo elogiato in questo podcast. Infatti molti di noi ne sono fan, me lo confermate? Assolutamente, sì. Siamo per gli indie game. Ok, allora, per il nostro amico invece l'indie gaming non è esattamente tutta questa tutto questo tsunami di originalità come ce lo vogliono presentare la critica e anche le stesse case che distribuiscono questi giochi. Infatti lui accusa, se così vogliamo, anzi chiama questo filone di gioco come la moda del non gioco, ovvero dei prodotti che in teoria nemmeno sono videogiochi nel senso stretto, ma vengono sviluppati e distribuiti come se lo fossero. Queste sono parole sue, diciamo. E quindi noi ci ritroviamo, come nella maggior parte di questi giochi, a vagare in degli ambienti molto astratti, molto... come dire, molto costly, per usare un termine inglese, senza uno scopo preciso, a volte catturati chi più chi meno da trame molto interessanti, molto, molto intricate, a volte piene di colpi di scena. Insomma, è un lavoro più da film passivo, lui dice, che non da gioco. E quindi, secondo lui, ciò che hanno di male sostanzialmente è che, oltre ad essere promossi come giochi ma non esserlo allo stesso tempo, vengono anche venduti a prezzi che a volte non valgono il prezzo del gioco. Lui porta, porta degli esempi, parla di The Graveyard, che è un'avventura per iOS in cui si simula una camminata nel cimitero, parla di Journey, parla di Dear Easter, parla di questi tre titoli che secondo lui sono un poco... Tra l'altro sono tra i più recenti, mi sembra, diciamo, l'uscita del giro. E dice che sostanzialmente non è il caso di distribuire prodotti di questo tipo se non gratuitamente, e che anche 7 euro, che è il prezzo ad esempio di Dear Easter, sono fin troppi per da chiedere, insomma, ad un giocatore interessato. Quindi lui conclude dicendo che la critica dovrebbe essere molto attenta nel valutare certi prodotti, perché in molti acquirenti suscitano solo noia, e la stessa distribuzione dovrebbe darsi una regolata. Ora, io vorrei sapere, secondo voi, quanto le sue parole e il suo pensiero sia condivisibile? Cioè, l'indie gaming è effettivamente la moda del non gioco? È effettivamente una scappatoia delle... non so, per i produttori di videogiochi che si sentono tanto originali nel creare queste ambientazioni minimaliste, queste trame molto complicate, ma che alla fine non creano dei prodotti soddisfacenti? Oppure c'è qualcosa di buono? Allora, ci vorrei perdere due parole io. Partendo dal presupposto che io giochi indie ne ho provati un paio, insomma, molti non mi entusiasmano effettivamente, e in fondo parte del suo articolo è condivisibile. Effettivamente non è un Mass Effect, cioè nessuno di questi giochi avrà una trama complessa, avrà tutta quella ricercatezza che c'è nei giochi, per così dire, mainstream, ok? Stiamo parlando di indie con un concetto molto largo, in realtà, non independent solo come casa, anche come concetto, va, diciamola così. Dall'altro lato, io non vedo perché accanirsi contro questi giochi quando ce ne sono stati tantissimi in passato che non erano poi tanto gioco, ma hanno fatto il loro successo, hanno dei fan clamorosi. A me viene in mente, non so, qualcuno di voi si è giocato dei Laserdisc Games, no? Cioè, Laserdisc Games mi viene in mente, che ne so, Dragon Slayer, ok? Caspita, Dragon Slayer. Ecco, in fondo, come gioco, non è che ci fosse poi tantissimo gioco, era molto indiretto come esperienza, eppure ha tirato fuori un gran gioco e una schiera di fan non indifferente. E visto che lui sta parlando di numeri e di prezzi, io dico che quel gioco valeva il prezzo e ha fatto i suoi numeri, ecco. Anche oppure per il tempo in mente, in che cui ne so, era prodotto, comunque. Anche, comunque, io tuttora... conosco un paio di persone che effettivamente ci vanno ancora pazze, se lo rigiocherebbero. Anzi, qualcuno se lo rigioca. Ecco, se lo rigioca su iPhone, insomma, quando può. Oppure qualcuno si ricorda Myst. Cioè, Myst è una serie. Esatto, è una serie piuttosto tragica, nel senso che se non sei dentro il genere e non ti piace in particolare questo gioco per come è fatto, è un gioco più di ambience che altro. Quindi mi viene a dire. Cioè, ok, senza dubbio gli indie sono da prendere con le pinze, ma è un qualcosa che c'è da sempre, questa cultura del non gioco, come è stata definita, c'è da sempre alla sua schiera di fan e va rispettata in qualche modo. Ho capito che il mainstream si vuole mangiare tutto col role playing game, il first person shooter vecchio stile, ma in realtà c'è anche altro, e quell'altro, a mio parere, va toccato e va trattato con la stessa dignità. Qualcuno di voi si unisce al coro? Ditemi. Allora, io direi questo, prima cosa, poi riprendo un po' quello che hai detto. Allora, voglio sapere soltanto questo da voi. Se non è un gioco, se è un non gioco, allora che cos'è? Secondo me è un gioco, cioè non si discute di questo. Non gioco lo si può chiamare magari dicendo, sì, vabbè, non fai le cose canoniche, però le cose canoniche alla fine, se sono sparare, saltare... non lo so, fare missioni e cose varie, chi lo decide alla fine? La maggioranza dei giocatori? Sì, forse sì, però voglio dire, mi sembra ingiusto parlare di non gioco in questo caso, perché per qualcuno potrebbe essere questo il gioco e non il non gioco, che invece potrebbe essere lo sparatutto canonico, eccetera. Comunque, detto questo, un fatto che condivido in effetti è il prezzo, perché io l'altra volta ho comprato Journey, 13 euro su PSN, l'ho finito in tipo 90 minuti, molto bello, ne parlo dopo. Comunque, i 13 euro per quel Journey, secondo me, non sono stati poi proprio... Esatti, non erano proprio esatti, perché comunque sono un bel po' per un gioco che comunque si propone indie. Secondo me la cosa migliore nella scena indie per quanto riguarda il prezzo l'ha fatta Minecraft. Perché Minecraft alla fine ha detto, cioè Minecraft è uscito in versione di prova, Notch ha detto va bene, provatelo, se vi piace magari fate una donazione oppure compratelo, dopodiché è uscito anche a prezzo fisso come sappiamo eccetera. Però quello è stato un inizio per invogliare i fan ad un gioco che si prestava a indie. Secondo me i giochi indie devono stare attenti a proporsi come tali, perché i giochi indie per prima cosa devono essere rivolti verso i videogiocatori tra virgolette alternativi, dopodiché si parla di soldi, perché è un po' questa la deriva che si sta prendendo. È giusto, perché comunque gli sviluppatori devono comunque avere dei compensi, questo è sicuro, per il loro lavoro. Però non si parlerebbe più di giochi indie in questo caso, secondo me, perché indie sta per independent. Poi se stai là a guardare, se fai delle anche dei prezzi mediamente alti per un gioco indie, già esci fuori, secondo me. Qualcun altro che si vuole aggiungere? No, assolutamente. Io, guarda, mi hai tolto le parole di bocca, volevo appunto soffermarmi sul fatto che sull'importanza, diciamo, l'unica cosa che io penso sia condivisibile da questo articolo sia il fatto che a volte il prezzo distacca un po' da quella che è la natura dell'independent game, che dovrebbe essere distribuito se non gratuitamente come più un prezzo, come dire, di simbolico, insomma, per sostenere chi ha sviluppato il gioco, anche perché uno non sono dei giochi che coinvolgono un pubblico come un che ne so, un Mass Effect o un FPS di ultima generazione, insomma, quindi non è che uno si possa aspettare grandi guadagni e quindi per questo non è che posso vendere una copia a 50 euro perché siccome ho poca gente che lo compra io devo guadagnare un tot, ok? Questo è, mi sembra abbastanza, sì, abbastanza sì, chiaro. Cioè, nonostante è importante, come diceva prima Garriden, dare il giusto rispetto comunque a quella che è una corrente che è sempre esistita. Cioè, voglio dire, Half-Life è nato anche come indie, o no? Cioè, stiamo parlando di comunque giochi che hanno fatto la storia, come anche Counter-Strike. Sì, vabbè, forse quel periodo era un attimo diverso. Cioè, io ripeto, secondo me l'esempio giusto è quello di Minecraft, perché Minecraft è uscito come vero gioco indie. Si è proprio proposto come gioco indie, ha detto noi abbiamo fatto questa cosa, se vi piace provatela e se vi piace così tanto magari donate qualcosa. Poi hanno donato in così tanti, Minecraft è diventato così famoso che adesso non ci si è aperto pure lo studio suo, quindi questo è la vita, dovrebbe essere la vita di un gioco indie. Poi se mi parti con 15 euro e ti proponi come gioco indie, sei meno credibile. Esatto, e ciò nonostante Minecraft abbia avuto sempre più successo, il prezzo è comunque rimasto quello. Voglio dire, non è che si sa ogni volta che c'è un aggiornamento lo devo comprare, sì, o devo fare cose strane, insomma, è rimasto gioco indie. Ragazzi, una sola parentesi a proposito dei prezzi. Sia chiaro, io non mi metto ad argomentarla perché non so neanche io quanto possa essere giusta, ma siamo sicuri che è veramente la provenienza di un gioco a stabilirne il prezzo? Cioè, chi ha il diritto di dire questo gioco vale 10 euro, questo gioco vale 20, questo è indie, allora vale una fame? Cioè, io credo che il prezzo sia per, che ne so, coprire quelli che sono i costi di produzione, magari un po' di più dei costi di produzione. Un gioco indie ha avuto dei costi seri, non vanno coperti. Certo, ma generalmente i giochi indie non hanno gli stessi prezzi di produzione degli altri, insomma. Esatto, non sei un indie, capito? Non sei vero, però insomma, Journey deve aver avuto una bella produzione dietro, ha tirato fuori comunque roba di qualità, magari non longevo. I produttori di Journey comunque avevano una loro storia, Cioè, ma loro non è il primo gioco tra virgolette indie che fanno. Quindi qualcosa già l'avevano in effetti, quindi magari quello senza è dubbio. Un comunque sia, io mi leggo alla storia delle donazioni, ci mancherebbe, era giusto per aprire una parentesi. Io sono d'accordo che le donazioni dovrebbero essere il modo migliore, almeno in partenza. Comunque credo siamo d'accordo su Journey questo. È promosso da Sony, quindi voglio dire, non è che sia proprio fatto in un garage. Sì, cioè... sì no, stiamo parlando di independent molto largo, infatti. È un independent come molto concetto. Poco independent, nel vero senso della esatto. parola. Sì, vabbè. Va bene così con Rampage. Vi parlo un attimino della mia news. Non è proprio una news, è una vera e propria recensione. Parliamoci chiaro, ho voluto mettere le mani su Windows 8 per potervi dire un po', insomma, voi sporchi gamer, PC gamer, sia chiaro, se vale la pena, insomma, passare a questo Windows 8. Magari avete tutte le vostre belle applicazioni lì già pronte e non volete tirarci un bel formattone, un upgrade. Beh, che dire, tempo fa, se vi ricordate, sul blog All About Microsoft, Mary Jo Foley aveva detto che Windows 8 avrebbe deluso gli utenti desktop, avrebbe preferito più che altro lanciarsi nel mercato dei tablet. Che dire, era una voce allora, adesso effettivamente è una realtà, ragazzi. Windows 8 è un sistema operativo tablet oriented, ok? Tutte le novità veramente degne di questo nome sono per sistemi tablet o favoriscono chi ha sistemi touch, quindi tenetelo a mente quando andate a installare questo sistema. Si era speculato anche, strada facendo, si era detto che avrebbe avuto una partenza veramente veloce. Ora, a dire la verità, Windows 8 parte veramente veloce, ok? Ha un boot, specie se avete un BIOS nuovo, ha un boot clamorosamente rapido. E quindi, insomma, è stata una promessa effettivamente quasi realizzata da Microsoft. L'unica cosa che mi viene da dire è davvero così necessario che un computer parta così velocemente? Io preferisco aspettare un pochino di più e avere tutto quanto a posto che avere la partenza rapida e poi magari in background mi succede l'ira di Dio. A parte questa piccola storia della partenza rapida che io non condivido in tutta onestà, anche perché poi quando riempio lo startup di programmi ci mette comunque 3 ore, devo dire che la promessa è stata mantenuta effettivamente, la partenza veloce c'è. Per quanto riguarda l'interfaccia di login, è bella, obiettivamente la grafica di tutto il sistema è particolarmente interessante. Ci sono dei metodi di login proprio sporchi e da tablettari, che ne so, cliccare sull'immagine al posto della password in un punto particolare, queste puttanate che piacciono a Microsoft e soprattutto piacciono a chi ha un sistema touch. Molto condivise, io non ne vedo l'utilità dal mio sistema desktop, io qui sto parlando a favore di chi ha un sistema desktop. Detto questo, ha una marea di scelte di default, un tasto start che fa un po' di tutto tra cerca e roba varia, che non mi ha entusiasmato poi tanto. Ha ogni tanto capita il doppio orario in versione grande, come se avesse uno schermo piccolino. Io questa cosa logicamente non ne ho trovato utilità sul mio 15,4 pollici. Inoltre la barra degli strumenti grandissima, tipo Word, piena di un sacco di roba che serve se avete uno schermo piccolo anch'essa, io non ne ho trovato anche a questo una grande utilità, anzi mi è pesata anche. Infine ci sono delle applicazioni per gestire social network, un po' come succede con i telefoni Android di adesso, sono Socialite e Twitrama. Le ho provate entrambe. Guarda, Socialite non mi entusiasma, devo dire, nessuna applicazione che sostiene Facebook mi entusiasma, perché trovo che Facebook già vada piuttosto bene, però allo stesso tempo ho trovato divertente Twitrama. Io vi consiglio di provarle e farvi un'idea, sono comode effettivamente, lo ammetto. Chiudo dicendo, date un'occhiata su Tom's Hardware, c'è un articolo e uno dei commenti veramente geniali che ho trovato è stato qualcuno che ha scritto: Windows 8? Oh, better looking BSOD. Cioè, di tutte quante le migliorie di Windows 8, la cosa migliore è solo che quando va in BSOD è un pochino più carino, ecco. Ha avuto un minimo di... Beh, insomma, parliamoci chiaro, cattiveria. Ci sono delle cose buone in Windows 8, io vi consiglio di provarle. Ci sono anche tante cose inutili di default e secondo me il default conta per la maggior parte degli utenti. Qualcuno vuole aggiungere? Malloman forse che l'ha provato? Sì, anche io effettivamente ho provato Windows 8 e concordo in generale su quello che hai detto. Effettivamente, cioè, per chi è utente senza tablet di Windows 8, cioè di tutte le novità introdotte, diciamo che se ne fa veramente poco, in quanto dei tile sul mio laptop, che me ne faccio? Mentre se abbiamo appunto un tablet è tutto più... cioè è molto tablet oriented questo sistema. La cosa che colpisce veramente comunque è lo stile metro, anche il fatto che esteticamente il sistema però è molto bello, bisogna dirlo. La grafica è veramente molto curata, quindi sì, come hai detto tu, esteticamente è molto bello. Per quanto riguarda la partenza, insomma, sì, effettivamente è molto veloce e secondo me ha un'utilità comunque questo fatto della partenza veloce, in quanto magari tu lo hai spento, ti serve immediatamente una cosa e non devi aspettare magari svariati minuti, ma subito accendi e sei già pronto a fare quello che devi fare. Però se questo deve andare a discapito di altre cose, ovviamente preferisco aspettare quel minuto in più, quei 30 secondi in più e avere tutto pronto come si deve. Ci mancherebbe, no? Se devo essere onesto, non mi sembra ci siano dei drawback in questa scelta. Il sistema va bene, solo per una persona come me che usa molte applicazioni all'avvio non c'è una vera differenza, ecco, questo volevo dire. Eh sì, probabilmente su questo infatti incidono poi parecchio le applicazioni di startup. Poi vabbè, una cosa che sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso è come vengono gestite il nuovo modo di gestire le applicazioni, in quanto vediamo che mentre usiamo Windows 8, ovviamente i tablet non hanno un equipaggiamento comparabile a quello di un PC, quindi ovviamente l'uso delle risorse deve essere molto molto accurato. E però per ovviare, diciamo, alla lentezza o al rallentamento del sistema, praticamente noi vediamo che quando ad esempio la nostra RAM inizia a scarseggiare, le applicazioni precedentemente aperte si chiudono, cioè si chiudono automaticamente, il sistema che va e le chiude. Ora, non so, questa scelta a me lascia veramente parecchio perplesso, perché non è che abbiamo un messaggio di alert che dice RAM insufficiente, vuoi salvare il tuo lavoro? O una cosa del genere. Cioè vengono chiuse così senza dire niente ed è il programmatore che deve prevedere 2000 cose per evitare che tu perdi lo stato della tua applicazione, anche il tuo lavoro, eccetera eccetera. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. No, vabbè. Guarda, io attenderei la release ufficiale per esprimermi sulla gestione della memoria. Magari ci sono ancora dei cambiamenti in corso. Ah, sì, qui. Vabbè, chiaramente ancora in beta, ancora hanno tempo. Ci speriamo, va. Eh sì, ci speriamo, perché sinceramente lascia parecchio perplessa questa cosa. No, non che sia molto un bel bene. Inizio per una beta, ecco. Vabbè, era cattiva questa, dai. Vabbè, siete stati fin troppo lusinghieri con Microsoft. Hai ragione, questo non è un posto per gente a cui piace Microsoft, infatti... quindi insomma, utenti Microsoft, sviate. Ma se prima Garriden, che è un cattivo, ha detto che il commento di prima era cattivo, vuol dire che seriamente... Ma no, dai, senti un po', torniamo in tema videoludico. Murtag, di che ci parli? Di una cosa un po' brutta che ha fatto discutere. Allora, molto brevemente, un 12enne la notte del 26 marzo ha ucciso un suo amico invece di 10 anni dopo aver giocato a Call of Duty Black Ops prendendo un'arma che era a casa sua, chiaramente in America. E appunto sparandolo, quindi uccidendolo. Questo chiaramente ha fatto risorgere tutte quelle polemiche sui videogiochi e non vanno bene per i bambini, inducono ad uccidere, a picchiare, a rubare, eccetera, tutte cazzate, come ho già detto tante altre volte. Ma soprattutto a me ha fatto pensare una cosa. Call of Duty, prendiamo Call of Duty in esame, che ha un rating come tutti gli altri giochi, in questo caso M, mature, cioè per i 17enni in poi. Che senso hanno i rating, in effetti, non solo per i videogiochi, in generale? Se tu mi metti un rating su, prendo uno dei più estremi, per esempio Grand Theft Auto, no? E poi lo fai comprare a un bambino di 8 anni, me lo spieghi quel rating, quella A di adults, a che cosa serve? È chiaro che il bambino non è un adulto, però lo può comprare. Allora, mi spiegate un attimo la logica del rating, perché non ha senso. Io già di questo avevo parlato in, credo, qualche podcast fa, del rating, appunto, è che non ha senso, e non solo per i videogiochi. Poi il rating dei videogiochi secondo me è ridicolo, perché, ok, il rating più alto è quello A, che ho detto poco fa, cioè adulti. Sotto abbiamo mature, che è un anno in meno di adulti, e poi ci sono teen, eccetera. Voglio dire, non ci lamentiamo se dopo che succedono questi fatti uno va a vedere Black Ops e Red Dead per i maturi 17 anni. Sì, vabbè, grazie, lo dovevi vedere prima, tu genitore che hai comprato quel gioco, perché non credo che può darsi pure che un dodicenne sia andato a comprare il gioco, eccetera, però a sto punto o mi fai valere il rating, cioè mi dai un senso al rating che blocchi queste cose, oppure non me lo metti, e io propenderei per quest'ultima cosa, cioè non mettermelo il rating, perché che senso ha? Cioè, se poi devi andare a criticare chi fa il gioco e giochi, non hai più ragione, perché ti basi su qualcosa che non ha senso, semplicemente. Guarda, due parole. Primo, mi piacciono un sacco le etichette del rating, quella con ragno è bellissima, quindi non la caccerei per motivi estetici. Ah, ma quella... sì. Ma al di là di questo... guarda, io credo che l'unica colpa, logicamente, è un dato di fatto, l'unica colpa è della persona che sta dietro al bancone, che accetta di vendere magari il gioco ogni tanto anche a chi è fuori dal rating, chiaramente fuori dal rating, ok? Non mi pare una cosa tanto grave, in fondo se gliela compra il genitore e poi gliela porta, è la stessa cosa. Quindi io dico... a me sembra la colpa sia solo di un genitore quando succede una cosa simile. Il gioco è quello, è un'opera d'arte, è là. Potrebbe essere una qualunque, cioè potrebbe essere stimolato un ragazzo da qualunque altra cosa a prendere un'arma e sparare, magari un film, magari un quadro, un libro, una cazzata. Non sta a chi crea una di queste cose pensare a ciò. Sta al distributore, ma scusa, sta ancora prima al genitore dare un'occhiata a che cosa gioca il proprio figlio. Magari se non siete proprio uno di quelli che proibiscono Dungeons and Dragons perché è occulto o cose simili, è meglio. Io dico solo un occhio di riguardo e un po' di testa. Per il resto il rating ci può essere, non se lo guarda nessuno sostanzialmente. Aiutatemi, Luca, dimmi qualcosa. No, vabbè, faccio parte di quella categoria di bambini che le mamme degli altri, le mamme dei compagni di classe con cui andavo a scuola da piccolo, quando vedevano che io giocavo a GTA San Andreas, poi non mandavano più il bimbo a giocare al computer con me, insomma. Quindi mo, il punto qual è? Che non è il videogioco che forma la mente della persona, ma è come i tuoi genitori ti hanno insegnato ad approcciarti al videogioco. Cioè, se io so, a prescindere da quanti anni io abbia, che quel gioco è finzione ed è un gioco, allora poi non vado ad uccidere il mio compagno di banco, insomma, cioè, capito qual è la situazione. Dopodiché il rating è una questione molto interessante, secondo me andrebbe abolito perché non ha alcun senso, è uno spreco nella copertina dei videogiochi, cioè non viene utilizzato chiaramente. I distributori spesso secondo me non hanno neanche idea dei rating che abbiano i giochi che distribuiscono, perché tanto tutti giocano a tutto. Ed è un dato di fatto, se non lo compro io, lo compra mio padre e poi me lo porta, oppure, cioè, non ha alcun senso, è più una cosa di avvertimento, è come per il porno, voglio dire. Non è vero. Poi abbia molto senso. La questione è burocratica di fondo, insomma. Cioè, è chiaro, giusto. Per avere la coscienza a posto, però non ha una vera utilità il rating, non ha un vero senso. Qualcuno vuole aggiungere? Sì, voglio dire una cosetta veloce. Secondo me la differenza tra sparare su Call of Duty e sparare nella realtà è grandissima. E ci sono... Se andate su Call of Duty you online... non ho sentito, scusa. Allora, se andate su Call of Duty online, troverete una barca di bimbi minchia che probabilmente vi diranno: ah sì, ma io conosco tutte le armi di Call of Duty, se mi date un'arma la riconosco, so sparare, eccetera. Molti lo sanno, la differenza tra un'arma nel gioco e un'arma reale è grande, cioè c'è una differenza anche di forza sicuramente nel maneggiare un'arma, nel saperla utilizzare. Quindi, prima cosa di tutto, non bisogna ricercare il problema nel videogioco, bisogna ricercare il problema nell'educazione data a questo bambino, perché secondo me è sbagliata, perché se sei un bravo genitore, prima cosa di tutto gli fai capire che non si spara neanche se te lo dice il videogioco, ma anche il videogioco più bello del mondo, anche il film più bello del mondo, anche il libro più bello del mondo. E B, ma deve avere qualche problema sto bambino per non sapere che c'è una differenza tra realtà e videogioco. Questo è il problema, non è il problema di Call of Duty, che tra l'altro, vabbè, non mi piace, ma questo non vuol dire niente, voglio dire. Infatti è un gioco di merda, voglio dire, sei ispirato proprio al peggio del peggio, voglio dire. Sì, vabbè. Voglio dire, l'atmosfera è chiaro che è diversa. Poi Black Ops, che è un Call of Duty pure abbastanza particolare, vabbè. Io volevo dire soltanto questo. Quindi educate i vostri cacchio di figli e non seccate a noi. Malloman? Sì, appunto, io concordo proprio pienamente con quello che ha appena detto Murta. Che cioè il problema, no, è quello di sensibilizzare il ragazzo. Ma questo, cioè, appunto, è con qualsiasi cosa. Uno può anche vedere, cioè il problema non è il videogioco. Anche se uno vede, non lo so, il film di Scarface, poi non è che odo di Rambo, non penso che va a prendere un M60 e inizia a sparare per tutta la città. Perché appunto i genitori penso che si occupano di sensibilizzare il proprio figlio, a dire vedi che questo qua è un film, è un videogioco, è finzione, non si fa nella vita reale. Quindi appunto il problema è che forse il bambino era poco sensibile a questo tipo di cose e ha interpretato male un videogioco, ma per il resto il videogioco in sé non, o il rating sull'età non so che colpa possano avere, eh. Ma no, se uno spara un altro, cioè è psicopatico, non è il videogioco che ti fa diventare violento. Ragazzi, benvenuti nella confraternita cristiana di Nerdcast, noi siamo il vostro aiuto. Portateci i vostri bambini, gli insegneremo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sparate. Malloman, senti un po'. Sparare, ma va. Sparate. Vabbè, continui. Senti un po', Malloman, puoi continuare a parlarci tu della tua news? Sì, allora, bene, io vi porto una nuova idea di casa Mojang, che sappiamo tutti essere la casa editrice di Minecraft, il nostro amato Minecraft. Bene, appunto, pare che Notch, Marcus Persson, abbia ideato un nuovo gioco che si chiama 0x10 elevato a C. Ora, appunto, le novità sembrano parecchie. Il gioco è ambientato su un universo, in un universo sull'orlo della distruzione, e diciamo sarà anche improntato sullo stile di Minecraft, quindi ci sarà il farming, la possibilità di costruire, eccetera eccetera. Ancora chiaramente queste sono solo voci di corridoio, nessuna voce ufficiale. Comunque pare che ci saranno anche parecchi combattimenti e una gestione commerciale. Beh, un'altra novità è anche quella che, siccome la redstone non era abbastanza hardcore, verranno aggiunte anche le CPU programmabili a basso livello, perché per chi si flippava tantissimo a fare meccanismi ultra complessi, e Garriden ne sa qualcosa, su un nostro amato Minecraft. E diciamo, questa sembra una bella novità. Inoltre pare che il gioco da giocare in single player sia gratuito, però verrà richiesta una quota mensile per il mantenimento, cioè una quota mensile per giocare in multiplayer, non so, tipo come su World of Warcraft, che tu paghi mensilmente l'abbonamento, eccetera. Beh, come news, diciamo, queste qua sono le voci che sono trapelate, per il resto non è nulla di certo, purtroppo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Guarda, non ci esprimiamo, perché con la news hai toccato bene o male un po' del nostro Nerd Talk, quindi io mi risparmio per dopo. Cioè, questo gioco ha un qualcosa di hardcore che certamente non vedremo nelle console, secondo me. Ne parliamo fra poco. Io per adesso vi lascio col nostro primo pezzo preso da giamendo.com. Il pezzo è dei Margin of Safety, sono un gruppo finnico. Si definiscono su MySpace a metà fra fusion, progressive, rock. Io vi dico che sono chiaramente, sì, sono molto progressive, hanno chiaramente una vena rock. Hanno rilasciato 3 album e sono tutti quanti coperti da Creative Commons. Questi sono Margin of Safety, il pezzo è Drive. Thank you. We'll be right back. questi erano i Margin of Safety con Drive. Prima di addentrarci nel Nerd Talk, vi voglio dire un paio di parole sul nostro podcast. In particolare, avrete notato, abbiamo una veste audio tutta quanta nuova, abbiamo cambiato un po' di cose nella nostra registrazione, in come vi rilasciamo il file audio. Speriamo vi piaccia. Se avete consigli da darci oppure volete solamente apprezzare un ottimo risultato, potete mandarci una mail su nerdocast@gmail.com. Avevo accennato poco fa a queste nuove rubriche, volete parlarne un po' di queste rubriche? Magari ad esempio Murtag vuole dirci come sarà la nuova Onigiri. Sì, allora Onigiri, oltre ad avere sempre più o meno la stessa impostazione che aveva nel podcast, sarà un po' più ampia, perché uscirà appunto da sola, credo una volta al mese, ma non voglio anticiparmi molto, voglio semplicemente dirvi che parlerò soprattutto di manga, di anime, di roba giapponese, cioè l'anima del podcast delle primissime puntate, che aveva, come sapete, chi ascolta il podcast da molto tempo, aveva una sezione giapponese che poi col tempo se n'è andata. Adesso ritornerà, diciamo, in veste abbastanza nuova nel nuovo Nigiri. Oltre questo vi dico stay tuned, che arrivano le novità. Molto bene, molto bene. E invece Luca vi dirà qualcosa sulla nostra prima e finora unica videorubrica. Luca? Bene, la mia è diversa dalle altre rubriche che vi proporremo, perché avrà bisogno di un supporto video, dal momento che la registrerò mentre giocherò a Minecraft, da qui il titolo Meanwhile in the Cubic World. Non ha un argomento che tratterò preciso, perché non sono in grado di contenere i miei pensieri in dei confini, diciamo, quindi mi limiterò a fare opinionismo generico delle cose che mi passeranno in quel periodo per la testa mentre giocherò a Minecraft, quindi dandovi questa componente nerd e facendovi vedere quelli che sono i progressi del nostro staff nel mondo cubico, dal momento che ne siamo fortemente drogati da qualche tempo a questa parte. Chiariamo, Murtag non è un tipo da Minecraft, potrebbe uccidervi se lo scambiate come tale. Solo Murtag però. Va bene, continuiamo. Per quanto riguarda la mia rubrica, si chiamerà Sturmovik, non vi dico quasi nulla perché veramente sarà piuttosto random, lo ammetto. Vi posso dire che non vi aspettate di sentire roba 8-bit nerd come la potete sentire in questo podcast, nel podcast principale. Sarà molto più fuori dalle righe, prenderà un argomento a caso e lo svilupperà come meglio ci riesce, insomma. Sto ancora decidendo a grandi linee come sarà. Vi consiglio di scaricare la prima puntata e farvi un'idea non appena uscirà. Detto questo, possiamo passare al nostro Nerd Talk. Sigla. Ok, Nerd Talk di oggi. Vi parliamo, visto che siamo in maggior parte dei PCisti, lo sapete, tranne Murtag, fra noi è quello che gioca più console, indubbiamente. Vi volevamo parlare di quella che un articolo ha definito la rinascita del gioco PC. Il rinascimento. Il rinascimento. Ma ditemi la verità, ragazzi, secondo voi il gioco PC era morto, e soprattutto perché? Chi vuole parlare? Ne parlo io. Vai, lanciati. Allora, mi apro con la stessa apertura, diciamo, una delle domande che ci siamo posti noi dello staff una volta che abbiamo letto questo articolo, cioè perché, che cos'è che può avere portato la critica a pensare che il gioco PC fosse morto per un certo periodo? Allora, una possibile risposta può essere che l'hardware a un certo punto, necessario per supportare certi titoli, fosse troppo costoso e quindi ovviamente non alla portata di tutti. Ne parlo io, che sono stato vittima di questo fenomeno, giocando ad FPS a livello, non lo so, a livello amatoriale, comunque facevo dei tornei, e a un certo punto venivo completamente devastato da gente che non solo era più forte di me, ma che aveva dei supporti a livello hardware che non mi consentivano di stargli dietro. Vedi quando sono usciti, c'è stato il boom degli i7 a un certo punto, che in un FPS, ragazzi, sono fondamentali. Oppure, vabbè, io avevo anche problemi di connessione, ma questo non è strettamente collegato al PC. Comunque l'hardware, almeno per una certa nicchia di giochi, ha giocato un ruolo fondamentale. Vedi anche Skyrim, quanto ci vuole per sostenere un gioco di questo tipo, quanto ci vuole per sostenere, non lo so, anche un Mass Effect 3, Crysis, che è stato uno dei primi giochi che nessuno riusciva a giocare per questioni di limitazione, sì, hardware, drammatico. Far Cry, cioè erano questi, sono stati i primi giochi, e poi noi pensavamo che vabbè, ma quello è Crysis, vabbè, ma quello è Far Cry, sono due giochi. Invece poi tutti i giochi che sono usciti dopo di loro praticamente hanno cominciato a richiedere molto a livello hardware, e questo forse ha un po', come dire, fatto sì che si allentasse la presa tra i giocatori per PC e la moda, se così vogliamo. Guarda, mi permetto di infilarmi, e non mi risparmio stavolta, vi sparo direttamente tutto ciò che penso sui vantaggi del PC gaming. Oh, per prima cosa, look, we have a badass here. No, vabbè, senza troppo patriottismo per la piattaforma PC, insomma. Semplicemente ci sono un paio di giocatori, se così li vogliamo chiamare, sono un pochino folli, insomma, che quando comprano un gioco passano più tempo sulla schermata dell'INI a modificare i parametri grafici che non nell'attuale gameplay, ok? C'è un vero e proprio gusto nel farlo. Ti stai autocitando per caso, amico? No, vabbè, in fondo un pochino, ammetto che è così. Cioè, io se non avessi la possibilità di modificare, non lo so, un paio di parametri del gioco, così vedere come funziona, non ci proverei gusto. Sono senza dubbio parte di una nicchia di gamers, insomma, quelli un pochino più interessati al lato tecnico, ma ci sono. Mamma mia, siete terribili. Il fatto sta che su una console questa storia non regge, non funziona, e di conseguenza già per me è un qualcosa che vado a perdere uscendo dalla piattaforma PC. Lasciando stare lati malati, come li chiamate voi, vogliamo parlare delle mods. Cioè, il mercato delle mods, ma non solo mods, parlo anche di piccole espansioni, magari piccoli progetti che si vanno a creare, esiste sulle console, però è veramente infimo. Cioè, le possibilità di modificare un gioco su console sono quelle che sono un pochino macchinose. Su tutte quante le mod famose che magari sfociano in videogiochi, sono tutte quante su piattaforma PC. Secondo me sono un lato importante del gaming, ogni tanto tirano fuori delle idee che vanno a creare giochi seri nel futuro. Non so se avete avuto occasione di provare qualcuna di queste mods per qualche gioco e vi siete fatti un'idea, chi fra voi? Sì, io posso citare le mod per giochi Valve più che altro, quindi più per Portal, Half-Life, là ci ho perso molto tempo. Ed erano fatte tutte quasi molto bene, ma questo perché comunque devo dire... si prestavano a questo. Cioè, io ho preso il caso Valve perché comunque Valve è molto aperta verso i suoi videogiocatori. Se no, altre mod comunque molto belle. Prima, quando giocavo a Minecraft, ce n'erano molte, ce ne sono anche ora, molto interessanti. Oltre questo, cioè oltre le mod che sono secondo me sì un punto centrale, io vorrei spostare un attimo la discussione di nuovo al centro. Cioè, secondo me ci sono due tipologie di videogiocatori PC. Ci sono i videogiocatori PC che hanno un PC e basta, quindi console, e possono comprare o piratare i giochi, questo dipende. E poi ci sono i videogiocatori PC come me che hanno anche altre piattaforme di gioco. Adesso io, nonostante abbia parecchie, diciamo abbastanza, piattaforme di gioco, anche portatili, devo dire che il PC rimane sempre la mia scelta preferita, semplicemente perché è flessibile. Io devo dire questo, su PC ci sono tante comodità che su console giustamente non possono esserci. World of Warcraft non avrebbe mai potuto, prendo World of Warcraft così, ce ne sarebbero tanti altri, non avrebbe potuto mai avere tutto questo successo se non fosse stato su PC, perché su PC è molto più accessibile anche il campo online su PC è imbattibile, perché puoi mettere tutto in live il PSN che vuoi, però l'online su PC rimane sempre quello. E soprattutto, oltre all'online, che secondo me è la caratteristica fondamentale che fa sorgere il PC, la flessibilità anche, c'è anche il fatto che alcuni giochi vengono proposti soprattutto, ma non solo, su PC. E faccio per esempio Audio Surf, Minecraft appunto, World of Goo, Terraria, ce ne sono tanti altri, Super Meat Boy, che non è solo per PC. Sono tutti giochi che, ok, magari sono anche tra virgolette piccoli, però sono proprio questi che stanno continuando a dare al PC quello spessore che secondo me stava perdendo, in effetti, perché ci sono stati quei primi anni 2000, comunque diciamo tutti questi ultimi 10 anni, ho sentito gente sempre dire che il PC stava per morire, era ormai una piattaforma poco utile eccetera, ne sento ancora tutt'oggi, ma in effetti se ci pensiamo alcuni giochi, tra i migliori giochi soprattutto dell'ultimo anno, secondo me sono PC, e parlo per esempio di Portal 2, che non è solo PC, però nasce soprattutto per PC, parlo di nuovo, lo dico di nuovo, Minecraft, parlo di GDR, di MMO grandiosi, famosi, come appunto World of Warcraft, ormai anche The Old Republic eccetera. È semplicemente questo, secondo me adesso la fase è abbastanza calante per le console, perché ci vedo sempre più amalgamazione ad un genere troppo fisso, non lo so, mi stanno un po' deludendo, mentre su PC in effetti ormai da quasi un anno a questa parte trovo le cose davvero interessanti. Guarda, hai tirato fuori una cosa spettacolare, cioè hai parlato di Portal come gioco un po' più PC dei altri, effettivamente è così, cioè Portal è un gioco da tastiera e mouse. Ora, quanti giocatori PlayStation usano tastiera e mouse? Sono pochi, secondo me, cioè sono meno di quanti si possano immaginare. Allora dico, un giocatore FPS vecchio stile giocherebbe mai su PlayStation? Sì, forse in parte sì, ma non sarebbe la stessa cosa. Cioè, parliamoci chiaro, Counter-Strike su PlayStation ve lo giochereste? Non lo mai. So, su una console ve lo giochereste? È difficile anche da pensare, magari è fattibilissimo, ma è difficile da pensare. Quindi questo è, credo sia un punto a favore del PC, non so se Murtag condivide in qualche modo. Sai che cosa? Ormai i giochi si fanno o PC oriented o console oriented. E prendo due grandi giochi. È questo che volevo dire. Sì. Skyrim, ma guarda un po', è console oriented, questo l'abbiamo già detto. Minecraft, Portal, eccetera, sono PC oriented. Anche prendo un gioco molto piccolo di cui parlo dopo, Super Meat Boy, che è anche per Xbox, per Live, è sicuramente, secondo me, molto più PC oriented. Cioè si vede proprio anche lo stampo indie che è più PC oriented. Magari questa è filosofia del videogioco, però si vede un po'. E che bisogna capire, bisogna vedere, studiare dove sta andando il mercato. Se il mercato è ancora interessato al PC, e secondo me una buona fetta è interessato, e se il mercato ancora vede nelle console l'aumento di popolarità, e forse ancora c'è, ma di meno di quanto lo fosse per esempio 5 anni fa. Io ricordo che 5 anni fa ormai il PC era dato per morto, per spacciato, non usciva più niente, ormai le console là, console qua. Poi il mercato indie, come dicevamo prima, ha risolto tutto, quindi insomma bisogna dare anche il giusto peso alle cose piccole. Allora, io volevo aggiungere una cosa. Innanzitutto volevo rispondere a quello che aveva detto Rampage, che effettivamente c'è stato un momento in cui i dispositivi hardware quasi non ce la facevano, cioè non quasi, non ce la facevano a reggere i videogame. Però è anche vero che, non so, prendiamo un GTA 4 su console e vederlo su un PC è completamente diverso. Cioè, voglio dire, vedete una configurazione ultra a GTA 4 con un PC che ovviamente la regge, ma non è neanche lontanamente paragonabile a quella, a un GTA 4 di una PlayStation 3 o di un Xbox 360, in quanto anche quelle supportano, diciamo, il livello di dettaglio medio-basso. Poi, inoltre, c'è anche da dire che appunto come dispositivi per il gioco, diciamo, c'è chi preferisce il controller, ma appunto il controller per alcuni giochi, tipo gli FPS, tipo gli MMORPG, non sono assolutamente adatti. Cioè, forse per gli FPS diciamo no, però comunque un Counter-Strike, io non mi ci vedo proprio giocare un Counter-Strike col controller. È assolutamente impensabile. Voglio la mia mira col mouse proprio precisa là, così e basta. Non mi troverei proprio assolutamente con un controller. Poi diciamo sempre, quando voi dicevate che appunto il PC gaming stava morendo, beh effettivamente se noi notiamo le console danno una certa semplicità per quanto riguarda il gioco, cioè tu inserisci il dischetto e giochi. Mentre ad esempio con un PC ti devi prima preoccupare, ma il PC mi supporta il gioco, ho le componenti necessarie, ho i requisiti minimi, ho questo, quell'altro, poi c'è l'errore perché il driver della scheda grafica eccetera. Quindi un non geek del computer preferisce chiaramente una console, in quanto beh, ho comprato il gioco, apro, inserisco, arrivederci, sto giocando. E quindi questo però effettivamente è un punto di merito, se vogliamo, user friendly, va, delle console. Che dire? Sì, cioè, scusami se ti interrompo, no? Dico, io qua, almeno io personalmente, non voglio criticare console per dire PC è meglio o contrario. Cioè, ci sono, come dicevi tu, dei generi che sono fatti, vanno meglio per console, e ci sono dei generi che vanno meglio per PC. Io giocare Assassin's Creed su PC lo trovo scomodo. Giocare Assassin's Creed su PS3 mi è sembrato sempre più comodo. Questo, oppure per esempio i platform sono meglio su console, i puzzle sono meglio su PC, gli FPS in generale su PC, gli action adventure in generale su console. Quindi tutto questo dipende in realtà. Quindi la nascita del gioco PC, secondo me, deve soffermarsi soprattutto sulla storia del PC, che è più meramente probabilmente FPS e GDR. Non stiamo parlando di due generi così, stiamo parlando probabilmente dei due generi più famosi. Sì, ma poi effettivamente non abbiamo poi considerato anche il lato dei giochi di sport. Cioè, come si gioca a FIFA 12, ad esempio, con la tastiera? Ma è impossibile. Sì. Quello serve necessariamente un controller, un pad. Però chiaramente, appunto, ci sono giochi che vanno meglio su PC per determinati motivi, e che abbiamo appena elencato, e quindi giochi che vanno meglio su console. Se mi permettete, andatelo a dire ai giocatori della ESL che FIFA non si gioca con la tastiera. Comunque, vorrei un attimo riagganciarmi ad un paio di cose che sono state dette. Allora, intanto il fatto che esistano dei giochi PC oriented contro giochi console oriented, non lo so io quanto questa distinzione, almeno dal mio punto di vista, non c'è un vero genere che si addice più a un certo tipo di console che al computer, insomma. La verità, insomma, la differenza sostanziale è quella che, come diceva Malloman, la console ha il vantaggio che io prendo il gioco e quello mi funziona, non mi devo fare pippe mentali su niente, lo attacco lì e buonanotte. Ma è per questo motivo che io ho sempre considerato i giocatori che usano solo console come dei videogiocatori occasionali. Secondo me non sono neanche dei veri videogiocatori, perché il videogiocatore è quello che, come Garrian, piglia e comincia a farsi seghe mentali dalla mattina alla sera sulle mod che deve mettere, che deve installare, su certi aspetti che... Cioè, il PC significa... Addio videogiocatori, no, PlayStation. PC significa... No, loro non ci seguiranno, no, aspetta, più. Fammi finire. PC significa personalizzazione. Ok, le console non sono personalizzazione, e secondo me il vero videogiocatore è quello che si gode la possibilità di giocare il suo gioco indipendentemente dal fatto che quello è un certo gioco. Cioè, in console si gioca tutti più o meno allo stesso modo, invece ognuno nel suo PC ha stili completamente differenti. Cioè, se io mi metto a giocare con il PC di un altro, non sono capace. Se io invece, che sono un giocatore di PS, mi metto a giocare con quella di un altro, sono perfettamente in grado. Questo non pensate che abbia una qualche influenza? Dipende quanto conta la personalizzazione per il giocatore. Cioè, a chi piace moddare il gioco all'estremo, impostare anche il minimo particolare di grafica, ovviamente penso che preferisca il PC, ma chi di queste cose insomma non gli dà troppo peso, fin troppo peso, poi non vedo perché comunque il vero videogiocatore è uno di quello che si preoccupa se l'acqua ti fa il riflesso così o il cocco lì. Secondo me quello, no, cioè io mi dissocio completamente da quello che hai detto prima, non sono assolutamente d'accordo. Ma secondo me il videogiocatore è un'entità attiva, non passiva. Ho capito, ma non, cioè, il gioco in sé con le impostazioni sì, c'entra, però non è che chissà quanto. Secondo me è una componente fondamentale. Ok, vabbè, due opinioni differenti, chiaramente. Allora, pure io voglio dire che mi dissocio dal fatto che non sono videogiocatori veri, quelli che non guardano la cazzata sulle impostazioni, eccetera. In realtà sono una tipologia di giocatori, però qua secondo me ci addentriamo in un discorso un po' più ampio, dovremmo fare un altro Nerd Talk rispetto a questo. Io solo dire questo, che più che il fatto che il PC te lo puoi, diciamo, customizzare, la battaglia si sposta più su che panorama di giochi ci sono. Cioè, fino a qualche anno fa, all'inizio della new generation, soprattutto delle console, no? C'erano dei giochi davvero interessanti e nuovi, grandi novità, che a me piacevano tanto, mi sono piaciute tantissimo quelle novità. Dopodiché, pian piano, il panorama si è andato ad amalgamare sempre di più verso dei generi canonici. Per questo le esclusive che prima erano e che sono anche ora su console, quindi soprattutto PS3, Xbox 360, secondo me hanno meno appeal. Poi posso essere anch'io, cioè nel senso, io posso aver cambiato la mia voglia di giocare qualcosa di diverso da console a PC, però io vi posso dire che giocavo, e gioco anche adesso, molto console, però sicuramente di meno rispetto al PC, ma questo perché soprattutto le esclusive, tra virgolette esclusive, dunque i giochi soprattutto per PC, mi interessano di più, perché ormai il mondo console è là, è sempre attaccato a quei 3-4 generi e non si trova più niente di particolare. Io non compravo dal PSN da tantissimo tempo, ho dovuto aspettare giorni per comprare di nuovo qualcosa. Sì. No, io volevo soltanto aggiungere una cosa riguardo a ciò che ha salvato il PC negli ultimi anni. Tra i fattori che secondo me sono stati determinanti c'è la pirateria, perché nelle console è molto più difficile procurarsi un gioco che costa molto in maniera illegale e provarlo, giocarlo, piuttosto che con computer, no? Me lo confermate questo? Quindi, sì, è una realtà. Quindi il fatto è che se io ho il computer ho la possibilità di provare un gioco appena uscito molto più facilmente. E quindi da un certo punto di vista sono avvantaggiato rispetto agli altri. Quindi è vero che il computer mi costa di più, ma mi dà. Ma se poi io sono il tipo di persona che scarica i giochi e poi invece di provarli li finisce e non li va a comprare una volta che gli sono piaciuti come sarebbe giusto che fosse, allora poi dopo che ho fatto un solo acquisto ho tutto in mano. No? Sì, sono d'accordo, cioè purtroppo è così, purtroppo non ci puoi fare niente. Questo è vero, e questo è tutto relativo al fatto che, cioè, purtroppo anche da queste cose negative il PC sta rinascendo. Cioè il PC non è mai morto in questo fatto che hai appena citato, però grazie anche a questo il PC ormai sta rinascendo sempre di più e ci sono sempre più case videoludiche che dicono no, noi non produciamo più su PC perché c'è solo pirateria, come mi ricordo Capcom non voleva far uscire, se non sbaglio, Super Street Fighter 4 per PC perché per la pirateria, eccetera. Insomma, non ha tutti i torti, però la rinascita del PC, bisogna dire, parte anche da queste cose, se vogliamo, negative o positive, poi ognuno ha il suo punto di vista, insomma. Sì, assolutamente. Questa storia della Capcom ce la ricordiamo, insomma. Guardate, secondo me, a parte questo discorso di purismo, va? Chi è il più puro fra PC e PlayStation? A me onestamente non mi interessa. Secondo me state tralasciando anche il fatto che ci sono dei giochi veramente, dai, sul serio, ci sono dei giochi nati su console, giochi nati su PC. A me viene in mente il gestionale. Non ha mai preso piede sulla console. Vabbè, come fa? Esatto, cioè, no, oddio, forse qualcosa, che ne so, The Sims già aveva dato una mezza idea, no? Anche se non è un gestionale vero e proprio. In generale, tutta la cultura dei gestionali rimane su PC, standard, non si muoveranno mai quei questo pezzi. Questo te lo approvo. Grande, veri, sono felice di quello che dico. No, scherzi a parte, i gestionali lì, però allo stesso tempo, prendi un gioco come... Pio, quello che mi piace di più, prendo Little Big Planet, che è veramente un gioco, a mio parere, ok, quello è il gioco console, cioè un gioco del genere secondo me su PC non venderebbe neanche, fa parte di una tradizione di giochi che si è venuta a creare solo lì, che ne so, è partita da Crash, da quando già Crash Bandicoot era solo PlayStation, quel tipo di gioco di platformer tridimensionale un po' sì, lineare, ma molto, molto colorato, pieno di cose strane. È roba da console, il PCista non lo accetta, ok? Sono tutti quanti tipi di giochi che hanno trovato la loro fetta di pubblico in quello o in quell'altra console, a mio parere. Non siete d'accordo? Tu l'hai giocato sicuramente Little Big Planet, Murtag, dimmi qualcosa. Io ce l'ho Little Big Planet, il primo. Sì, è sicuramente un gioco console, ma perché come dicevi tu e come dicevo anch'io prima, è fatto apposta per è pensato per quello, è un'esclusiva PS3, quindi è pensato per quello, è chiaro che è così. Cioè, mi pare ovvio che se vogliamo parlare di una competizione tra console e PC, bisogna parlare soprattutto dei giochi dedicati alle varie piattaforme. Dopodiché, secondo me, su PC può essere fatto uscire di tutto, sempre che tu sappia come proporlo, perché secondo me anche di questi tempi cercare di far uscire qualcosa che è prettamente console su PC è molto rischioso, come abbiamo visto ciò che sta andando forte su PC e che dà davvero molte soddisfazioni, come sta capitando anche con iPhone e l'App Store, sono i giochi tra virgolette piccoli che te li vendono a poco, però guadagni tanto, e questo è secondo me uno dei punti principali della rinascita del gioco PC, che secondo me è in atto ormai da almeno 3-4 mesi o anche di più, credo anche nell'ultimo anno, secondo me con Minecraft che è il simbolo della rinascita vera e propria. Minecraft è il simbolo di come i giochi, anche se tra virgolette indipendenti, hanno il potere di far spostare tutta una certa utenza su PC. Sai cosa? Prima ho detto che non esiste una vera differenza tra giochi per PC e giochi per console, perché tutti possono essere giocati in tutte le console. Allora, non avevo, come dire, concluso tutto il pensiero nella mia testa. La verità è che secondo me ciò che rende... Allora, la console, io ho questo ricordo, quando c'erano le prime console... Non è che fossero le prime console, ma erano il Nintendo 64, no? Queste cose così giurassiche. Allora, la differenza magico sostanziale che c'era tra me, che non avevo il Nintendo, e il mio amico che aveva il Nintendo, era che quando io andavo a casa sua, il gioco in multiplayer, ok, l'esperienza sociale del videogioco, era più facilmente... Se ne aveva un'esperienza più facile, perché all'epoca internet non era quello di oggi, quindi pensare di giocare in multiplayer online era fantascienza. Invece le console hanno dato da subito la possibilità di giocare in multiplayer, quindi prendevi la tua console, attaccavi alla televisione, attaccavi Mario Kart, lo schermo si spezzava in due o in quattro, arrivava fino, e giocavi con i tuoi amici, ok? Questa è una cosa che ha dato alle console, prima che internet si facesse più o meno veloce per tutti, un po' di vantaggio, secondo me. Ed è ciò che ha fatto sì che venissero a crearsi dei giochi per console diversi da quelli che c'erano per PC. Perché effettivamente per un certo periodo il gioco in multiplayer per PC era difficile da proporre. Guarda, questa cosa che hai detto, io vorrei ribadire che per PC anche in quel periodo c'era il multiplayer a più controller, solo che effettivamente hai ragione tu, la facilità che davano le console era drammatica rispetto a quella del computer, ok? Cioè si comprava il controller, si attaccava al volo, non ci voleva niente, questo è vero. C'era la controparte PC ma non funzionava, siamo d'accordo, no? Sì, assolutamente, sì, era sì. Scomodo. Io giocavo a Age of Empires contro mio padre, dovevamo attaccare il cavo seriale tra i due computer, ognuno che poteva tempi. Guardare nello schermo dell'altro, era un po' scomodo, insomma. Però era un gestionale, mai si sarebbe potuto giocare in console. Caspita, questa è tutta la nostra discussione in un solo gioco, hai sparato. Molto bene, ragazzi, secondo voi cos'altro c'è da dire su questa storia? Niente, io voglio semplicemente ribadire il fatto che il PC secondo me non morirà mai come proprio piattaforma di gioco principale. Quindi si può parlare di filoni discendenti e ce ne sono stati. Secondo me ce ne saranno di nuovo adesso che si stanno preparando le nuove console di nuova generazione. Quindi aspettatevi un'altra ricaduta a breve. E se i sviluppatori PC non avranno comunque la genialità di poter continuare come hanno fatto nell'ultimo anno, diciamo negli ultimi due anni, il PC calerà, però non finirà mai. Soprattutto, mi dispiace ripeterlo, però, per il fatto che la pirateria è parecchio più accessibile su PC. C'è altro, ragazzi? Beh sì, io volevo aggiungere che appunto il casual gaming, beh pensiamoci un attimo, spesso si dice no, che console come la Wii siano sempre molto più adatte rispetto al PC del casual gaming, che effettivamente è in parte vero in quanto vediamo giochi della Wii che sono sicuramente non hardcore. Oppure che ne so, i dispositivi tipo PlayStation Move o Kinect per Xbox sono anche, diciamo, dispositivi orientati verso il casual gaming. Però la componente casual nel PC secondo voi non esiste proprio? Io non so, vi citerei Farmville ad esempio, o tutti i Ville, Cityville eccetera, tutti quei giochini alla Facebook, diciamo, che stanno avendo un successo veramente enorme. Voi che ne pensate? Il fenomeno del social gaming è inevitabilmente qualcosa che coinvolge il PC, dal momento che tali giochi sono integrati nei social network, quindi non coinvolgono le console, no? Ah, secondo me si può anche parlare di flash games a questo punto. Chi di voi magari nel tempo libero, esempio. Caspita, no, per fare un esempio, che ne so, anche free.com, e ti spari un giochino stupido che magari è divertente e non beccherai mai su console, bene o male. Mi correggi, Murtag, se non è così? Sicuramente, e soprattutto per riattaccarmi velocemente a quello che diceva Malloman, giochi casual su PC secondo me ce ne sono e come, io dico soltanto uno, ne dico The Sims. The Sims nasce su PC, The Sims cresce su PC, ancora vive su PC. E può essere anche hardcore, tra virgolette, poi è un caso particolare, però secondo me è un modo per, cioè è un gioco simbolo del fatto che su PC si può trovare qualsiasi cosa, tranne dei giochi forse proprio propriamente che nascono su console. Secondo me, io lo ripeto, i platform e gli action adventure su PC non si possono giocare, non si possono vedere. Poi, vabbè, questa è la mia opinione. Sì, sì, effettivamente io concordo. Comunque di casual gaming comunque su PC ne troviamo veramente quanto vogliamo. Beh, direi che con questo possiamo chiudere. Sì, ma sì, abbiamo detto un po' di tutto, vi abbiamo fatto assaggiare un pochino quello che sembra la rinascita del PC gaming, abbiamo fatto cattiveria gratuita sui giocatori console appena appena difesi da Murtag. Tu non hai fatto proprio cattiveria su niente, non ti preoccupare. Vai, chiudi sta rubrica che è meglio. Va bene, va bene. Questo era il nostro Nerd Talk di questo mese. Se avete domande oppure questioni da aprire riguardo questo Nerd Talk, la nostra mail la conoscete. Detto questo, vi lasciamo con il nostro secondo pezzo preso da gemendo.com. Questa volta il gruppo è tedesco, si chiamano Hobo Twang. Fanno pezzi dal settembre 2000, quindi hanno una certa esperienza anche in questo... Beh, parliamoci chiaro, è musica indie anche questa. Si definiscono con una marea di generi, almeno su Giamendo, rock alternative, reggae, acoustic, country, e devo dire la verità, sono effettivamente un bel misto, reggae, country e acoustic, in pieno lì, sì, li confermo in pieno, li potrete confermare anche voi da questo pezzo. Sono Hobo Twang e questa è Gotta Walkin'. Thank you. walking. I gotta walk in. Gotta walk in. Gotta walk in. Gotta walk in. Gotta walk in. Gotta walk in. Gotta walk in. Obo Tuan Gotta Walkin. Adesso, prima di cominciare la rubrica Time to Play, vi voglio solamente ricordare che abbiamo la nostra pagina su Facebook, abbiamo fatto qualche cambiamento, quindi vi preghiamo, mettete qualche like, perché sono tutti quanti ispanici quelli che mettono i like sulla pagina a causa di un problema di omonimia di cui vi abbiamo parlato. Amici ispanici, noi vi vogliamo bene. Allora, Garriden non parla per la maggior parte di noi, quindi non vi preoccupate, continuate a mettere like. Tanto non ti hanno capito, quindi non è che amico ispanico, vabbè, lasciamo stare. Forza ragazze ispaniche, mettete like, per il resto apprezziamo i like italiani. Inoltre il nostro account Twitter Nerdfats, vi ricordiamo che è gestito da noi quattro, se vedete tweet ognuno è firmato, quindi se volete contattarci potete twittarci, bene o male ci sono sempre io, ma anche gli altri dovrebbero entrare ogni tanto. Detto questo, vai con la sigla del Time to Play. Time to Play, eccoci qua con i giochi che abbiamo giocato in questo mese. Ci vuole introdurre qualche cambiamento su Minecraft, il nostro Rampage. Vai, ma Rampage. Sì. Scusami, allora, scusami un attimo, velocemente. Se volete skippare questa parte, allora è molto semplice. Premete il tasto centrale del vostro iPad e andate avanti. Ma che allora, è un po' seccante, ve lo dico. Cioè, la verità è che Murtag non riesce a vincere quella parte dentro di lui che gli dice: gioca, prenditi Minecraft, vai a giocare con i tuoi amici. Non ci riesce a reprimerla del tutto, e quindi ogni tanto deve dire qualcosa, qualche cazzata, per autoconvincersi del fatto che lui non voglia giocare a Minecraft con me, Garriden e Malloman. Ma vabbè, che dobbiamo fare? Glielo ecco, lasciamo. Ma diamo i contatti: nerdocast@gmail.com. Abbiamo un blog di riferimento, nerdpodcast.com. Lasciamolo bollire nel suo brodo. Allora, vai, changelog. Changelog Minecraft 1.2. Allora, premesso, oggi o ieri? Che giorno è oggi? 5. Quindi, allora, ieri è uscito Minecraft 1.2.5. Gli aggiornamenti non hanno molto di interessante da ciò che si è potuto leggere, quindi il changelog più interessante che vi propongo è quello della 1.2. Ora, l'aggiornamento 1.2 che fa? Ci porta tante novità, tante cose interessanti. Una fra tutte, i golem di ferro. I golem di ferro sono delle guardie che potremmo mettere al di fuori delle nostre case, così che ci guardino i muri di cinta da eventuali intrusioni mob o qualsiasi cosa di fastidioso, insomma. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo che l'intelligenza artificiale dei mob è molto migliorata, abbiamo un aggro spaventosamente più alto di quanto ce l'avessimo prima, veniamo inseguiti in massa, in modalità hardcore. Inoltre gli zombie possono sfondare le porte di legno delle nostre case ed entrarci sotto le coperte, quindi insomma un mondo più pericoloso di quanto già non fosse ci viene proposto da questo nuovo aggiornamento. Poi abbiamo degli aggiornamenti da un punto di vista, diciamo, di, se premete F3 in quello che prima vi dava con il cliente di Minecraft delle informazioni circa le vostre coordinate spaziali, adesso vedrete anche il tipo di ambiente in cui vi trovate, tipo, che ne so, palude, deserto, eccetera eccetera. È stato aggiunto un nuovo ambiente che è quello della giungla, che ha degli alberi altissimi che potrete divertirvi a distruggere, insomma, nuovi rifornimenti di legna per chi come noi ne era ormai rimasto senza. Che dire? Nient'altro di interessante. Diciamo che ciò che vi ho appena detto, secondo me, è già abbastanza per rendere l'esperienza di gioco un pochino più originale, più nuova. A proposito di Minecraft, stiamo giocando tutti quanti insieme, tutto sommato su un server. Ce ne vuoi parlare, Malloman? Sì, appunto, il nostro server si chiama Shadow Rays, il sito è shadowrays.net e qualora voleste farci compagnia, Garriden ha fatto una marea di stanze aggiuntive nella nostra dimora per ospitare chiunque. Tanto quindi, per buttare un po' di materiale. Se cosa? Tanto per buttare un po' di materiale. Sì, per fare sudare noi farmer. Quindi qualora voleste farci compagnia, shadowrays.net. Molto bene, molto bene. Detto questo, Murtag ci parla di un paio di giochini indie davvero interessanti. Vai, Murtag. Tre per la precisione. Dunque, andiamo abbastanza veloce, anche perché non c'è moltissimo da dire, c'è solo da provare. Partiamo con Super Meat Boy. Non è recentissimo, comunque 2011, fatto da Team Meat. Dunque, Super Meat Boy, se non lo conoscete già, ve lo spiego molto velocemente. È questo 2D a scorrimento simile Super Mario, molto difficile, molto frenetico, in cui siete questo uomo di carne, perciò appunto Super Meat Boy, e dovete salvare in ogni livello diciamo la vostra amata Bandage Girl, in questo caso. È uno dei giochi, è considerato come uno dei giochi più difficili degli ultimi anni. Secondo me è abbastanza difficile, però non troppo. Ho visto giochi anche più difficili, quindi non fatevi spaventare troppo. Io ero un attimo spaventato perché ho detto, vabbè, lo voglio giocare, ma non voglio stare frustrato fin troppo. Però l'ho giocato, l'ho finito tranquillamente, quindi potete giocarlo tranquillamente. Il secondo gioco è To The Moon. Sempre del 2011, novembre 2011, fatto da Freebird Games. Allora, questo è un gioco davvero indie, nel senso è qualcosa completamente fuori dai canoni. Ha una colonna sonora pazzesca, non saprei come inquadrarlo in nessuna tipologia di gioco, sinceramente. È un gioco a sé, è un gioco indie semplicemente, anche questo è solo da provare. To The Moon, diciamo che è una storia interattiva, quindi se siete fan di questa tipologia di gioco dovete assolutamente almeno provarlo. Siccome si basa quasi tutto sulla storia, non vorrei star qua a spoilerarvi troppo, voglio semplicemente dire che voi sarete due dottori che avranno il compito di portare un anziano malato che sta per morire sulla luna, perciò appunto il titolo To The Moon. Come farlo? Non ve lo dico, voglio farvi provare il gioco. Non costa neanche troppo rispetto, diciamo, anche a Super Meat Boy, che comunque ha dei packaging abbastanza, diciamo, complicati, anche molto rari. Se vedete su eBay ve ne renderete conto. Vi dico semplicemente questo: giocate sia Super Meat Boy che To The Moon, che meritano tanto. Poi, ultimo gioco, questo un po' meno indie degli altri due. Parliamo di Journey, uscito praticamente qualche mese fa, un mesetto fa, quindi 2012, fatto da Dead Game Company. Dunque Journey, solo per PSN, esclusiva appunto PSN, 13 euro come ho detto prima. E Journey, anche questo, è un gioco parecchio difficile da dire, da descrivere. Diciamo che anche questo è un gioco che si basa soprattutto su grafica e su colonna sonora musica, più che su gameplay, per questo è molto indie. Secondo me almeno non è quel capolavoro che avevo letto. Cioè, intendiamoci, Journey è un bellissimo gioco, è uno dei pochissimi giochi che mi hanno invogliato a comprare nuovamente sul PSN, e non lo facevo da tanti mesi, perché appunto tutti ne parlavano bene, ho visto voti altissimi eccetera. Devo dire che è sicuramente un bel gioco, però ha dei punti morti, secondo me ha dei punti un pochino deboli, un pochino lenti, e la cosa potrebbe anche dar fastidio. C'è una parte soprattutto verso la fine, adesso non voglio spoilerarvi troppo, il gioco dura poco, dura una novantina di minuti, però verso la fine c'è una parte molto lenta, ve ne accorgerete se ci arrivate, in cui vi trovate in una tempesta di neve, dovete camminare molto lentamente e può risultare abbastanza seccante, però in generale dà in effetti il senso, la sensazione di fare questo viaggio, appunto Journey. E anche in questo caso c'è solo da provare. Ultima cosa che non mi è piaciuta di Journey, non nel gioco in sé, è il prezzo, come ho detto prima. Secondo me 13 euro per Journey, che dura questa novantina di minuti, ha qualche parte di rigiocabilità ma piccola, non valgono fin troppo, però è da provare sicuramente. Semplicemente questo. Io volevo soltanto aggiungere, volevo spezzare una lancia in favore di Journey, perché nel multiplayer è stato un gioco che ha portato nel multiplayer lo spirito indie abstract. Cioè, perché nel multiplayer di Journey, quando tu entri in contatto con altri giocatori, non hai nessun tipo di possibilità per metterti in contatto con loro, di sapere chi sono, non puoi leggere i loro nickname, non sai dove si connettono, non hai una barra per chattare con loro. Vivete questo viaggio in tutta... estraniati, estranieri allo stesso tempo, ed è una cosa molto, sì, secondo me molto originale nel multiplayer, ecco. È vero, sì, in effetti questo devo ancora provarlo, cioè io ho detto semplicemente le cose che ho visto finora. Comunque proviamo il multiplayer e vediamo. Molto bello, ragazzi, che dire, i giochi che ha portato Murtag sono davvero superlativi. A me Super Meat Boy l'ho giocato e To The Moon davvero tante promesse. Io ci metterò mano questo mese, vi farò sapere nella prossima puntata. Davvero una grande scelta indie, devo dire. A proposito di indie, io vi porto due giochi che non sono tanto independent come distribuzione, però sono davvero interessanti e sono su questo filone molto bello da vedere e molto poco potente come trama, va? Diciamo sotto questo punto di vista. Sono Bastion e Dust Force. Vi parlo prima di Dust Force. Sostanzialmente questo gioco, parlandoci chiaro, non ha avuto questa grande ricezione, non l'hanno giocato in tanti. È un giochino che parte da un'idea stupida. Siete degli spazzini sostanzialmente in bidimensionale, e si tratta di pulire tutti quanti i livelli da un certo numero di foglie. Non è necessario che le cacciate tutte, però tante più ne caccerete, maggiore sarà il vostro punteggio. Segue lo schema del platformer classico. Devo dire, non c'è nulla di troppo nuovo. Ci sono le solite mosse da fare, i salti, bisogna avere un certo tempismo. Io personalmente l'ho apprezzato molto perché la grafica è davvero bella, è pulita e piacevole. Le musiche sono... vi fanno venire un mal di testa da paura, ma ne vale la pena. Che dire, ci sono delle parti molto veloci e dinamiche, e mi hanno tenuto parecchio sveglio. Davvero, un gioco piacevole e anche piuttosto breve. Vale la pena di giocarlo. Secondo me è veramente una piccola perla che vi dà un'idea di come il gioco per PC si stia muovendo. Sì, è sulla scia di Super Meat Boy, questo volevo dire, ecco. Sì, abbastanza. Per quanto riguarda Bastion, è una storia un po' diversa, nel senso che quando aprirete Bastion rimarrete folgorati da come è disegnato, sul serio. Ha davvero una combinazione di colori, disegni spettacolare, e il fatto che mentre camminiate nel mondo di Bastion il mondo si venga a formare dal nulla, vi piacerà. È un modo innovativo di far vedere la mappa man mano che la esplorate. Per il resto il gioco è semplice, mi ricorda, sto per dire una cosa un po' assurda, mi ricorda vagamente Diablo come idea, perché in fondo cammina, uccidi il mostro, mouse oriented, ok, è molto su quello stile. Per il resto a livello di concept non ha nulla a che vedere con Diablo. Non è neanche nulla di troppo innovativo, parliamoci chiaro, però è obiettivamente bello. La storia è narrata in terza persona da un altro personaggio che incontrerete strada facendo. È un gioco piuttosto solitario, devo dirlo, non aspettatevi dialoghi o cavolate. Perché mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché finalmente è un gioco dannatamente semplice, ok? Ha una storia di fondo, magari per certi versi, devo dirlo, vi farà pensare, caspita, che cosa succede dopo? Non perché sia chissà quanto complessa la storia, ha i suoi lati interessanti, Però allo stesso tempo non vi tedierà con tutti quanti i discorsi RPG che vi sta, insomma, il mainstream vi sta abituando a questo gioco. Bastion non è nulla di tutto ciò, provatelo, sono sicuro che in qualche modo vi piacerà. Questi erano i giochi che abbiamo giocato questo mese. Chiudiamo il nostro time to play e passiamo al momento rock and roll. Via con la sigla. Let's plug it in. It's gonna say, hey, I see you plugged in a new device. And it's gonna load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely, absolutely. Rock and LOL. Allora, partiamo in quarta con Murtag, che ci parla di un gioco che a lui sta molto a cuore e del suo logo. Vai, Murtag. Allora, io parlo del logo di Resident Evil 6. Allora, non è che mi stia molto a cuore, precisiamo questo. Anzi, io probabilmente Resident Evil 6 non lo comprerò come non ho comprato Resident Evil 5, però giudichiamo dopo averlo provato almeno. Sono un fan di Resident Evil, ma questi ultimi due non mi sono piaciuti assolutamente. Comunque, il logo di Resident Evil 6, basta andare su Google Immagini e cercare, è questo, appunto, questo 6 violaceo, diciamo violetto, che raffigura, in un primo momento sembrerebbe raffigurare un 6, in realtà se lo guardate bene, se cercate su Google Immagini ci sono anche delle immagini modificate apposta del logo per farvelo notare, l'immagine sembra, diciamo, una fellazio, ecco, per usare termini carini, fatta da un uomo ad un altro uomo con la testa da giraffa. Che detta così sembra una cosa improbabile, improponibile, che non esiste. You don't say. Non si sa... esatto. Beh, però non si sa mai il feticismo dove può arrivare. Comunque, c'è poco da dire in realtà. Andate a cercare il logo di Resident Evil 6, fateci caso. E diciamo, questo è anche un buon, anzi, un pessimo inizio per un gioco che secondo me sarà pessimo. Non dal punto di vista del gameplay, ma della sua storia. Però su questo ne riparleremo a tempo debito, diciamo. Molto bene, questo era il rock and roll a sfondo pornografico di Murtag. A proposito di pornografia che ci sta molto a cuore, ci racconta qualcosa Rampage, vero? No, sì, perché l'altro giorno ero a lezione, si parlava un po' di paraboloide, io mi chiedevo, ma queste cose nella vita reale che utilità avranno mai, no? Al che poi io so che i nerd trovano sempre una risposta a tutte queste domande. Vabbè. Ed hanno trovato la più grande applicazione della geometria delle quadratiche, delle quadriche quadratiche, non mi ricordo mai come cazzo si chiami, che è più interessante di tutte in assoluto. Io che vi devo dire, nel blog vi schiafferemo una funzione improponibile da leggere, che però se copierete ed incollerete su Google vi mostrerà subito il suo grafico, insomma, molto molto succinto, e niente, godetevi queste tette matematiche e passa. È la funzione delle tette, praticamente la funzione delle tette. Guarda, sappiamo che ci sono anche delle gamer che ci seguono, non è che è una funzione anche per loro? La funzione del pene. No, però ragazzi, daremo anche la funzione del pene. No, attenzione però, stiamo scadendo un attimo, Quella del pene è polare, però, non è... No! Sì. La teniamo a mente. Molto bene, femmine geek, c'è una funzione anche per voi. A proposito di geek, Malloman, tu ci porti un qualcosa di veramente drammatico come rock and roll, dai, dici qualcosa. Allora, il mio rock and roll parla del browser che, insomma, tutti noi amiamo odiare, possiamo dire così, che è Internet Explorer. Allora, nella pagina della puntata troverete sicuramente un video veramente, di cui non anticipo nulla, ma veramente divertentissimo e da vedere. E anche una pagina dove sono raccolti i tweet degli utilizzatori di Internet Explorer 9. Utilizzatori veri o presunti, chi lo sa, che comunque fanno ridere veramente tantissimo. Cioè, alcuni dicono, guardate, Internet Explorer oggi ha cambiato la mia giornata, Internet Explorer Internet Explorer è veramente fantastico. Internet Explorer 9 dominerà il mondo. Sostanzialmente sono questi tweet che si leggono in questa pagina, e c'è solo da leggere, da andare e leggerli, perché vi farete tantissime risate. Grandioso, grandioso. Io davvero sono scioccato da quella pagina. Ha cambiato la mia giornata, questo è poco ma sicuro. Visitatela e fatevi le due risate. Il video è molto bello, sbaglio, Marlon? Sì, sì, il video veramente è bellissimo. Vediamo il tizio dallo psicologo. È da vedere, veramente, non anticipo nulla. Ed è veramente da vedere. Anche se devo dire che forse, non dico che ci sia fondamento in quei tweet, però qualche miglioramento forse Internet Explorer 9 l'ho avuto, in quanto l'ho provato. E devo dire, già da come si è presentato, cioè voi cliccate su Internet Explorer 9, già il fatto che non ci abbia messo quei 50 secondi per avviarsi con incluso freezing dell'applicazione, già questo mi ha lasciato sorpresa. Vabbè, ma sei stato molto buono. 50 secondi, 50 secondi è quando ti va bene. Vabbè, sì, quando non avevi nessuna scheda aperta. Quando tipo ce ne avevi 3-4, puoi andare a farti un caffè. E ancora... Violenza gratuita contro Microsoft in questa puntata. Molto bene. Allora, ragazzi, ricapitolando. Apple, cioè, se ti piace l'Apple non ci segui più. Se ti piace Microsoft, abbiamo parlato male del tuo sistema operativo, quindi non ci vuoi più sentire. Se ti piaceva, oh ragazzi, non abbiamo parlato male di Assassin's Creed, raga, qualcuno parli male di Assassin's Creed? Oh mio Dio, è una merda, è una merda. Ok, neanche siamo quelli immortali. Ci sono più. Cioè, praticamente non ci segui. Di Skyrim, no, credo che abbiamo buttato abbastanza merda nelle scorse puntate. Allora, adesso non ci seguono gli Apple fan, i giocatori di Skyrim e giocatori di Assassin's Creed, e sono già, siamo già credo ad 1 miliardo di persone, quindi... E anche l'altro miliardo che usa Internet Explorer 9, ricordiamocelo. Wow, no dai, no, spero dai, non sia un miliardo di sfigati. Quelli non riescono neanche ad arrivare al podcast, ma non sono capaci di abbonarsi quelli. Esatto. Giusto, giustissimo. Ragazzi, il rock and roll lo chiudiamo con la mia cazzata. Dateci un'occhiata, è un video davvero assurdo, si intitola Japanese People Are Awesome. Sostanzialmente vedrete delle ragazzine vestite più o meno come negli hentai, insieme a dei tizi vestiti anch'essi come negli hentai, sostanzialmente. Non ci sono i tentacoli, sia chiaro. Che fanno lanci strani di oggetti, fanno cose che effettivamente è improbabile che vengano al primo colpo, e lo ripetono una quantità di volte drammatica fino a quando non riesce, che sia il lancio di un libro, che sia una pallina da golf che deve entrare in un buco. Ci sono davvero delle cose di una stupidità inaudita. Questo è giusto per aprire una parentesi su, ma cioè, che cosa cazzo fanno i giapponesi dalla mattina alla sera? Non sono forse spettacolari? Di questo ce ne parlerà di sicuro Murtag su Onigiri, vero? Sì, sì, sì. Ma aspettatevi di tutto su quella rubrica. Insomma, ci contiamo. Mi sto inventando cose un pochino. Vabbè, lasciamo stare, vedrete. Io mi chiedo in che modo Garriden abbia conosciuto questo Japanese People Are Awesome. Ma che domande sono? Logicamente queste le ho fatte andando su dei siti. Preoccupante, preoccupante. Ragazzi, le ho trovate su Smosh. Dai, le ho trovate su Smosh. Parliamoci chiaro. Smosh.com, sono davvero grandiosi Smosh. Se non li seguite, seguiteli. Sono un paio di ragazzi a cui piace l'hentai. Non è vero? Forse, non lo so. Forse no, mi sa di sì. Effettivamente gli piace. Quindi seguitevi anche Smosh. Con questo chiudiamo il rock and roll. E ci avviamo verso la sezione Retro Space, un salto nel passato. Via con la sigla. Retro Space. Bene, Retro Space. Allora, il nostro re del retro, Murtag, ci porta un gioco che è sicuramente il re dei platformers. Dai, Murtag, vai. Secondo me no, però non è il re dei platformers. Forse su PC è il re dei platformers. In generale. Esatto. a te, sì, vabbè, perché sennò qua dovremmo fare anni di storia. Allora, Jet Jack Rabbit, questo gioco in 2D a scorrimento, appunto, questo platform prodotto da quella che una volta si chiamava Epic Mega Games, oggi conosciuta come Epic, molto famosa per aver creato tanti giochi anche recenti, nel 1994 per MS-DOS. Uno dei sviluppatori, producer, è Cliff Bleszinski, Cliffy B, che è anche oggi è anche abbastanza famoso, cioè creatore di Gears of War, appunto, per Epic, quindi in buonissime mani. Jet Jack Rabbit, diciamo, la storia è un po' insulsa, in effetti. Cioè, la guerra tra conigli, tra lepre e tartaruga, che si combattono tra loro da anni. In pratica voi impersonificherete questo coniglio, appunto, Jet Jack Rabbit, che dovrà andare a salvare, come al solito, la sua amata, in questo caso Eva, salvare il pianeta. Insomma, la trama è anche abbastanza scontata. Ciò che risalta anche al giorno d'oggi come qualità principale di Jet Jack Rabbit rispetto anche agli altri giochi è il design, secondo me, perché aveva un design, soprattutto il secondo Jet Jack Rabbit, molto interessante, molto bello. La fisica era fatta molto bene, praticamente prendeva molti elementi di Sonic, molti elementi di Super Mario, metteva anche qualcosina di shooter in 2D, e riusciva ad amalgamare tutto questo in modo quasi perfetto. È un freeware, cioè adesso è un freeware, potete anche scaricarlo tranquillamente e provarlo su DOSBox. Chiaramente dovete provarlo, perché, come diceva Garriden, appunto, almeno su PC è un platformer, è uno dei pochi platform fatti veramente bene. E niente, guardatelo, dategli un'occhiata. Tra l'altro, l'ultimo Jet Jack Rabbit, cioè il 2, è del 98, quindi non è neanche troppo vecchio. Vero, vero, assolutamente, provatelo, è un bel gioco. Io vi voglio solo dire che ho intenzione di inimicarci un po' di fan di Mario Bros. Ragazzi, avete rotto il cazzo con Mario Bros, non è l'unico platformer. Date un'occhiata a Jet Jack Rabbit e non scassate le palle. Ok, addio utenti di Mario. Addio tutto Bene. Il mondo, a questo punto siamo rimasti solo, okay, solo in quattro. Dai Rampage, salvaci. Vabbè, tu, io dai. Vi salvo, perché il mio è incriticabile. Onestamente è talmente famoso che non vi farò neanche una recensione di questo gioco, perché è chiaro che chi non lo conosce in questo momento è solo perché è morto o non lo so. Cioè, è chiaro che è impossibile non averne una certa dimensione culturale, insomma, ecco. Io vi parlo di Space Invaders, ragazzi. Era il 1978, correvano, cioè erano ancora i T-Rex che correvano per le strade del Giappone quando Toshiro Nishikado, che fa? Si inventa questo, tira fuori questo gioco che alla fine sarà il gioco che farà il boom degli arcade, il gioco più clonato nella storia dei videogiochi, un fatturato di 500 milioni di dollari in pochissimo tempo, cioè proprio un gioco che ha rivoluzionato la storia dell'umanità, secondo me, è una cosa che dovrebbe essere citata anche nei libri di storia, dovrebbero mettere Space Invaders. Contate che questo gioco fu talmente addictive che in Giappone, per la quantità di monetine da 100 yen che vennero utilizzate per giocarci, la zecca di Stato fu costretta a riemetterne altre, perché non ce n'erano più in giro, erano tutte zicate nelle macchinette hardware che giravano della Taito, insomma. Ma qualcosa di spaventoso, insomma. Il gioco infatti era distribuito assieme alle altre macchinette da bar, il che mi riporta un po' indietro nella memoria. Vi ricordate quando ancora esistevano le sale giochi? Ormai praticamente le sale giochi non sono estinte, ragazzi. Niente, qualcosa di più retro di Space Invaders io penso che sia davvero impossibile trovarla. Io ci ho passato l'infanzia. La cosa bella è che Space Invaders racchiude un po' tutte quelle che sono le caratteristiche dei retro giochi che più ci piacciono, per esempio il fatto che fossero fatti in modo che, allora, chiaramente i giochi retro erano molto più difficili di quelli che oggi dicono essere dei giochi difficili. Infatti, per uno che gioca retro, Super Meat Boy alla fine non è poi tutta questa grande di difficoltà, no? Sostenetemi in questo, dai, so che sì, sicuramente, so che mi sì, sì, questo sicuramente. Bene. Space Invaders ha, come tanti altri giochi, diciamo, la caratteristica che il suo livello di difficoltà arrivi anche con la velocità, il fatto che i frame dovrebbero aumentare con l'andare avanti del gioco. La realtà invece è che i frame diminuiscono, le cose non vanno sempre più veloci come dovrebbero, ma siccome le console, diciamo, che supportavano Space Invaders non erano in grado di sostenerlo, a un certo punto il gioco sostanzialmente crashava, andava a un frame al secondo, era impossibile giocarci, e questo fu giustificato dalla Taito come una difficoltà aggiuntiva e quindi come un qualcosa di calcolato, che paraculi si direbbe oggi. Vero, vero. Niente, ragazzi, io vi abbandono con le lacrime agli occhi. ok, salvo io il silenzio del Luca commosso. Vi parlo anche io questa volta di un platformer, un platformer che difficilmente conoscerete, prende il nome da una formula magica arcinota, si chiama Hocus Pocus. Bene, questo platformer lo potevate giocare su DOS, adesso dovete aprire il vostro DOS box e armarvi di pazienza. Non ha niente a che fare con il film dall'omonimo titolo, che sicuramente voi geek ricorderete, era un film veramente d'altri tempi, però era divertente, si chiamava anche Hocus Pocus. Questo gioco non ha nulla a che fare, nonostante sia un contemporaneo, è un platformer vecchio stile, pieno di musichette interessanti e di sfondi che si muovono a tempo. Ci sono una certa varietà di mostri, devo dirlo, allora, questi platformer di un tempo sono veramente pointless, ragazzi, cioè... non si capisce che cazzo sono questi coccodrilli che vanno su due zampe e camminano da una parte all'altra, oppure perché a terra ci sono un miliardo di corone da raccogliere, cose così. Però è davvero uno spettacolo, questo gioco personalmente è stata, ci ho passato la mia infanzia. Guardate, devo dirlo, è piuttosto lungo, o sarò io che ci metto parecchio tempo perché mi voglio godere i paesaggi che si muovono sul parallasse e queste cose così, però il gioco è piuttosto lungo e in alcuni punti non è affatto facile. Ci sono quei fottuti diavoletti rossi che non muoiono mai a destra e a sinistra, ma delle cose assurde. Per quanto riguarda i power-ups, non possono mancare, logicamente, insomma, strada facendo avrete dei power-ups, avrete, come ho detto, delle puttanate da raccogliere, tante più ne raccoglierete, tanti più power-ups e premi strada facendo potrete sfruttare. Ci sono un paio di boss da combattere per tenere viva la vostra aspettativa. Ragazzi, che dire, era un gioco abbastanza di nicchia allora, non oso pensare che figura di nicchia fa adesso. Vale la pena provarlo, però, Hocus Pocus, lo giocare sul vostro DOSBox. E con questo chiudiamo il nostro Retro Space. Vi lasciamo con un pezzo orientale a dir poco. Il pezzo è di Toshinori Murashima, si chiama Dusk. Inutile dirvelo, ragazzi, il tizio viene dal Giappone. Sul suo MySpace ci scrive che gli interessa particolarmente tanto l'improvvisazione, il rock, il jazz, il chiptune e molti altri. Che posso dirvi, ragazzi, è veramente eclettico questo tizio ed è assolutamente da sentire. Toshinori Murashima, Dusk. Vi lasciamo i nostri saluti. Io sono Garriden, Rampage, Murtag, Mallon. E infine, molto bene, i nostri contatti ve li ribadisco un'ultima volta. Il mio è DevilSin92 su Twitter, quello di Murtag è Puppet4Real, ma lui in realtà non c'è mai. Non quello di Rampage. Quello di Rampage è Wish Freedom. E infine Malloman è Malloman. Ragazzi, ci vediamo il prossimo mese. Vi lasciamo tutti quanti ancora una volta il saluto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Molto bene, se siete riusciti a sopravvivere al nostro Toshinori Murashima, adesso vi beccate un bel easter egg in tutti i sensi. Siamo in periodo. Da parte nostra. Se avete letto, insomma, in giro, sono uscite un paio di classifiche sul miglior gioco del 2011. Ragazzi, inutile che ve lo dica, tutti i bastardi hanno votato per Skyrim. Ora, noi non siamo d'accordo, nessuno di noi ha votato per Skyrim. In quest'ultimo minuto vogliamo dirvi quali sono i nostri giochi dell'anno. Vai, Murtag. Portal 2 versione PC. Molto bene, tocca a me. Io, inutile che ve lo dico, già dalle puntate precedenti lo avreste dovuto intuire. Deus Ex Human Revolution, per me il gioco dell'anno 2011. Che cosa ci dice Rampage? Minecraft, perché sono un fricchettone. Non avevamo dubbi. Malloman. E per me pure Portal 2. Ragazzi, che dire, questi erano i nostri titoli, non ve li motiviamo neanche perché già sapete i nostri perché, insomma, il perché di ciascuno di noi. Vi lasciamo ulteriormente un altro saluto e ci aggiorniamo al prossimo mese, ragazzi. Un abbraccio. Ciao belli. Bye bye. Ciao.